Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchessi. Questa è la prima delle due edizioni di Italia in controluce, quelle che raccontano per Radio 24 l'Italia. Oggi è il 9 maggio, si celebra in tutta Italia la giornata della memoria delle vittime del terrorismo. Ci sarà a partire dalle 11, lo ricordo, un lungo convegno al Quirinale con il presidente Giorgio Napolitano e con i familiari delle vittime. Si ricordano le stragi nere come quelle di Piazza Fontana, della Questura di Milano, di Piazza della Loggia a Brescia, dell'Italicus, della stazione di Bologna, gran parte senza colpevoli, con sentenze passate in giudicato, che celebrano invece l'assoluzione, quindi anche la sconfitta della giustizia, omicidi politici di gruppi di sinistra che hanno assassinato magistrati, uomini delle forze dell'ordine, avvocati, giuslavoristi, giornalisti, gente comune. Una lunga, lunghissima scia di sangue che non dobbiamo mai dimenticare. Oggi Andrea Ferro gira il suo reportage lungo gli scalini che si snodano nella salita di Santa Brigida a Genova. C'era stata una chiusura anticipata in vista di tornate elettorali delle scuole e io ero vicino a Genova in Riviera al Mare con degli amici. Venne il fratello maggiore di una mia compagna di scuola, insomma di una ragazza che era nel nostro gruppo, dicendo che dovevamo tornare tutti a casa, però mi accorsi che era successo qualcosa e che aveva a che fare comunque con la mia famiglia, perché vidi un capannello di persone con un'edizione straordinaria di un quotidiano e c'era, riuscì a leggere solo a lettere cubitali il mio cognome, Coco. 8 giugno 1976, Massimo Cocco ha 16 anni. Il padre Francesco era il procuratore generale di Genova. Sulla mattonata lungo la quale stava tornando a casa, a due passi dalla stazione Principe, un comando brigatista gli aveva appena teso un agguato. In un inferno di piombo erano morti anche i due uomini della scorta, il brigadiere di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana. È l'attacco al cuore dello Stato. Il mirino dei terroristi ora è rivolto verso l'alto. È una guerra dichiarata che negli anni diverrà una strage centellinata dalle raffiche di un piombo che marchia un'epoca. Due anni prima, in occasione del sequestro di un altro magistrato, Mario Sossi, Cocco si era rifiutato di firmare la scarcerazione dei componenti della banda 22 ottobre, condizione posta per la liberazione del giudice. E l'esecuzione scatta nei giorni del primo anniversario della morte di Mara Kagol, la compagna di Renato Curcio, uccisa in un conflitto a fuoco con i carabinieri. I simboli si aggrovigliano e grondano di significati nella dimostrazione della geometrica potenza di un delirio armato. Il clima era acceso da campagne d'odio, purtroppo fomentate spesso anche dai media, e ricordo la figura di mio padre, a parte che c'era un po' lo stereotipo del magistrato come il personaggio conservatore di destra, bacchettone, asservito al potere politico. In particolare mio padre, chissà perché, aveva assurto la figura di persona di poteri estremi, tanto che si parafrasava Cecco Angeleri, no? Se fossi Cocco arderei lo mondo, come se mio padre avesse avuto chissà quali poteri. Diciamo che l'episodio del no alla liberazione dei componenti della banda del 22 ottobre si è configurato più come un casus belli, come una goccia che ha fatto traboccare un vaso che era colmo. Da due anni Francesco Cocco viveva sotto protezione, la scorta gli era stata imposta. Mio padre aborriva le scorte perché le considerava assolutamente un'inutile zavorra di bersagli umani. Lui sosteneva che è impossibile difendersi e se decidessero di uccidermi lo potrebbero fare con estrema facilità e in più io coinvolgerei altre persone. Addirittura ricordo era stato anche, purtroppo oggi con la cronaca degli anni a seguire possiamo dirlo con certezza, è stato anche profeta, perché ricordo, dicesse, poi parte che non vivo dentro un carro armato, ma potrebbero usare degli esplosivi, potrebbero usare delle bombe, che cosa ne sappiamo noi di come riescano ad armarsi e lì che difesa potrebbe esserci, non posso chiudermi in un bunker con tutti voi per tutta la vita. E come ogni lunedì il punto sulla scuola con Maria Piera Cece. Scuola in controluce.